Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchessi, questa Italia in controluce è il programma della redazione di Radio 24 che tutti i giorni indaga su cronaca, spettacolo, politica e costume. Contro il caro biglietti arriva il Ticket Crossing, il reportage di Maria Luisa Pezzali. La prima è stata a Genova, l'ultima in ordine di tempo è Milano, fresca di aumenti da 1 euro a 1,50 euro del biglietto di tram, autobus e metro. Ma ci sono anche Padova, Bologna, Vicenza e Trento, tutte città dove è comparso il ticket crossing. Lo scambio dei biglietti non ancora scaduti tra passeggeri. Funziona così, chi scende dai mezzi lascia il biglietto ancora valido in appositi contenitori alle fermate, a disposizione di chi sale. Una risposta dal basso alla crisi e all'aumento delle tariffe dei mezzi pubblici, risposta che le aziende dei trasporti bollano come illegale. Una protesta sotto forma di disobbedienza civile lanciata da movimenti di cittadini, studenti, sindacati e centri sociali. Fatta eccezione per Milano, dove a promuovere il ticket crossing è la Lega, sul piede di guerra contro le misure decise dal neosindaco Giuliano Pisapia. Proprio dal capoluogo lombardo siamo partiti per sondare gli umori sui rincari e sul ticket crossing. Penso che sia legittimo questo aumento perché in effetti pare che le ragioni addotte siano sufficientemente credibili. Credo che sia un po' esagerato, penso proprio di sì. Tanto, però non lo so, speriamo che il servizio comunque sia equiparato, quindi ci siano comunque più mezzi a disposizione, perché veramente c'è tanta gente su ogni mezzo, davvero. Per cui mi va bene se lo alzano, però che mettessero qualche autobus in più. Ma è un aumento eccessivo effettivamente, è vero che è tanto tempo che non aumenta. Ma io faccio sempre l'abbonamento integrato col treno e mi sembra un po' eccessivo l'aumento. Mi piace come idea, sì, anche perché a volte mi capita di darlo quando io scendo, se non è terminato ma sono già arrivata a casa, di passarlo. Quindi va benissimo, basta che poi non se ne approfittano e li rivendono. È una bellissima idea, ma credo che tutto quello che ha lasciato un po' all'iniziativa personale lasci un po' a desiderare, quindi credo poco che si possa realizzare. Ah sì? Sì, io sarei d'accordo, assolutamente. Infatti appena vedrò là la butterò dentro. Sì, è interessante la cosa, anche se forse un po' uno si deve mettere a scartare fra i biglietti a cercare quello. Ben venga, cioè quando uno non deve perdere niente può solo dare, va benissimo. A Genova il ticket crossing è stato lanciato la scorsa primavera. Le bottiglie del risparmio, bottiglie di plastica tagliate a modi contenitori, sono state piazzate a molte fermate degli autobus. La protesta del Movimento Uniti contro la crisi è stata portata avanti anche con finti cartelli della MT, l'ex municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico cittadino. Cartelli che invitavano i passeggeri muniti di biglietto convalidato non ancora scaduto a collaborare fra di loro e a non sprecare minuti di validità del biglietto. Luca, di Uniti contro la crisi. Dagli utenti è stata accolta positivamente, nel senso che comunque nelle varie stazioni ticket crossing che abbiamo lasciato le fermate degli autobus, col passare del tempo hanno iniziato appunto a comparire i biglietti utilizzati ma ancora utilizzabili per gli utenti del trasporto pubblico. Dal punto di vista invece di AMT, quindi dell'azienda dei trasporti locale, invece è stata molta paura, diciamo, di questa iniziativa. Si sono susseguiti comunicati sulla stampa locale in cui veniva specificato che questa è un'azione illegale, che si sarebbe potuto incappare in multe, che poi non è altro, cioè, dal nostro punto di vista, di una condivisione di qualcosa che ci spetta. Comunque se i 100 minuti per cui può essere utilizzato l'autobus sono ancora validi, non capiamo perché non si possa cedere il biglietto a qualcun altro. Si tratta semplicemente di cooperazione sociale in qualche modo. Alle polemiche di AMT rispetto all'utilizzo del ticket crossing, noi abbiamo risposto in maniera ironica facendo dei fake, utilizzando la stessa grafica che AMT usa per i regolamenti sugli autobus, appunto invitando invece la gente al contrario a condividere il biglietto con altri utenti del trasporto pubblico e appunto, come dicevo prima, a utilizzare questa forma di cooperazione sociale per rispondere alla crisi, all'aumento del biglietto, che tra l'altro si accompagna qua a Genova a un taglio delle linee sia notturne che collinari. Quindi il paradosso era che AMT chiede più soldi agli utenti ma nel frattempo taglia il servizio. C'era anche il rischio di un esubero di lavoratori in primavera, che ora penso che sia rientrato, anche se so che in programma nelle prossime settimane ci sono altri scioperi dei lavoratori di AMT, quindi è probabile che questa vertenza sia ancora in piedi. Da Genova a Padova, Bologna, Vicenza, Trento, grazie alla rete la protesta ha messo le radici. Per farsene un'idea basta digitare Ticket Crossing su YouTube. Sono decine le immagini e le voci della mobilitazione, i video autoprodotti che insegnano come diventare un ticket crosser. Un'iniziativa che vuole partire oggi e che si vuole moltiplicare la piazza Dante in tutte le fermate, in tutte le linee degli autobus in cui verranno allestiti questi contenitori. Per i passeggeri che scendono, se avete un biglietto appena obliterato e non lo usate, perché non lo lasciate nella scatola del ticket crossing? Crediamo che i trasporti debbano essere appunto un bene comune, specialmente per noi studenti, i prezzi dei trasporti sono insostenibili e i servizi sono scadenti. Lo pagano di più quelli che lo fanno, e quelli che non lo fanno lo fanno pagare agli altri. Allora, non ci vorrebbe l'aumento del biglietto in questo momento un po' di crisi, ma visto che tutto aumenta, se i servizi fossero adeguati all'aumento del biglietto, si potrebbe anche discutere. E poi ci sono i racconti dalla Grecia, dalla Francia, dalla Spagna, dagli Stati Uniti. Il ticket crossing è diffuso in molti paesi. Parole d'ordine, condivisione, solidarietà, gli stessi denominatori comuni di quella che anche gli esperti iniziano a chiamare economia condivisa. Pratiche di produzione, acquisto e distribuzione basate sullo scambio, sul baratto, sull'affitto, sul prestito, sull'usufrutto collettivo e la cooperazione. È l'ascesa del cosiddetto consumismo collaborativo. Così lo definiscono gli studiosi Rachel Botsman e Ru Rogers in un saggio intitolato What's Mine is Yours. Quello che è mio è tuo. Per il Time, una delle 10 idee che cambieranno il mondo. Strategie anticrisi che modificheranno profondamente molti comportamenti, ci conferma il sociologo dei consumi Mauro Ferraresi. In effetti si tratta proprio di una esplosione che è data da una contingenza, per la verità una contingenza che si sta trascinando ormai da 3-4 anni, che è questa crisi da finanziaria, lo sappiamo tutti, si è trasformata poi in una crisi economica e che ha coinvolto anche i consumi. E allora si corre ai ripari. E in realtà il mondo, come dire, in leasing, il mondo in affitto, le cose non possedute ma godute, sono temi vecchi. Ne parlava Rifkin intorno al 2000, nel passaggio del millennio. Oggi però assistiamo effettivamente a un proliferare di tantissime iniziative in questo senso, dalle più piccole, dove appunto si scambiano i biglietti, quindi dove l'entità dello swapping, dello scambio è minima, anche a quelle più consistenti, dove si scambiano le case per periodi limitati e per permettere a ciascuno di vivere un periodo di vacanza altrove che altrimenti non potrebbe godere, non potrebbe vivere. Probabilmente il concetto di proprietà diventerà un concetto diverso da come lo intendiamo oggi. Si parlerà proprietà delle qualità del prodotto, proprietà delle performance del prodotto, ma non necessariamente proprietà del prodotto, della cosa, del bene. Questo perché credo che la crisi in questo senso sia stata un potente acceleratore. Certamente è cambiato un comportamento del consumatore che trova quelle che sul momento crede essere scorciatoie, soluzioni a problemi di flusso di cassa, di denaro non disponibile sull'immediato, e che poi invece trova essere un modo nuovo anche per intrecciare nuove relazioni, per mettere insieme nuovi rapporti, per costruire una rete di amicizie. D'altronde lo sappiamo, la rete e i social network non sono semplicemente un mezzo di comunicazione di massa, sono ambienti in cui si sviluppano relazioni, sono quelle che gli americani chiamano le tecnologie relazionali. Era il reportage di Maria Luisa Pezzali sul Ticket Crossing, ogni giorno due puntate, 6.30, 13.30, questa era la seconda edizione. Vi ricordo, siamo su Facebook, pagina e gruppo, siamo su Twitter, intracciabili via mail, controluce@radio24.it. Siamo domani nuovamente alle 6.30 nella fascia in diretta di Radio 24 con la pillola d'Italia in controluce legata ai temi di stretta attualità.